Innanzitutto buongiorno. Buongiorno, ciao. Allora, abbiamo appena sentito insomma quello che succede a Ventimiglia, ci spostiamo da Ventimiglia a Lampedusa. Che sì. succede a Lampedusa? A Lampedusa sono ripresi gli sbarchi massicciamente, e in questi pochi giorni sono arrivati più di 1000 persone. E finora il sistema sta reggendo, nel senso che si riesce a portare queste persone al centro, vengono date le prime cure, vengono date le prime diciamo il primo soccorso. Dopodiché per le strade ci sono dei ragazzi tunisini, noi li abbiamo incontrati, siamo stati con loro. La situazione sull'isola è tranquilla per ora. Certo c'è una pressione mediatica forse forte, c'è una situazione che bisogna affrontare a livello nazionale ed europeo, perché Lampedusa è 22 km quadrati e giustamente abbiamo dei limiti proprio di spazio, ecco, non di altro. Però il Lampedusa come sempre sta rispondendo bene, e i ragazzi tunisini sono persone corrette, sono persone educate, tranquille, hanno dai 20 ai 30 anni, sono qui per cercare lavoro e la libertà, ecco. Senti, diciamo, che livello di presenza di compagni e compagne della Sicilia c'è a Lampedusa, nel senso che penso che mai come in questo momento forse sia importante che ci sia appunto un'accoglienza anche per capire, insomma, stanno molti in questo momento stanno partendo da stati, da nazioni che stanno facendo dei grossi cambiamenti al loro interno. Ma io ti dirò, c'è una presenza, insomma, non c'è una forte presenza in quel senso, però noi stiamo cercando di creare una rete sempre di più, non solo politica ma anche culturale, sociale, e fare delle proposte anche a livello nazionale, sia per sostenere gli immigrati, ma anche per sostenere i lampedusani, che in questo momento sono diciamo in una situazione un po' particolare, perché noi viviamo di pesca e di turismo, e diciamo è un po' siamo in una situazione un po' difficile rispetto a certo, sicuramente l'attività lavorativa è rallentata da tutto questo. Sì, però noi siamo propositivi in questo, noi pensiamo che l'immigrazione non sia un danno, anzi noi pensiamo che sia un vantaggio per Lampedusa, sia a livello umano perché ci permette di crescere, di incontrare nuove realtà, di incontrare la storia, perché questi ragazzi hanno fatto la storia, stanno facendo la storia e noi siamo partecipi di questo, e quindi è una grossa crescita a livello umano. E poi anche noi stiamo proponendo a tutti i gruppi GAS, i gruppi di acquisto solidale, a tutte quelle persone che vogliono dare un chiaro segnale etico e anche politico, stiamo dicendo venite in vacanza a Lampedusa, non solo per il mare, ma proprio per incontrare la storia e per sostenere questa comunità che comunque nel tempo ha dimostrato di essere solidale. Senti, sappiamo insomma che anche in Sicilia si stanno si vogliono riaprire basi, si cercano posti di accoglienza, si parla di Mineo, hai delle notizie insomma un po' più aggiornate? Guarda, io sulla Sicilia ho le notizie più o meno che avete voi. Sappiamo che il centro di Mineo verrà aperto, almeno queste sono le intenzioni. Dopodiché noi ascoltiamo le notizie come voi, ma non abbiamo dei canali diretti. Sì, infatti, va bene. Senti, non so se ci vuoi dire qualche altra cosa su quello che succede a Lampedusa. Per quanto riguarda invece, hanno riaperto anche il CIE di Lampedusa, ovviamente. No, il CIE è aperto il centro di primo soccorso e accoglienza. Ok, scusa. Però questo qua spesso viene frainteso, si chiama CIE mentre non funziona da CIE, perché il CIE è un centro di identificazione ed espulsione, e qui a Lampedusa fortunatamente non si è realizzato dopo gli scioperi del 2009, dopo quello che i lampedusani, diciamo, hanno fatto con le proteste, il CIE non si è realizzato. C'è stato in funzione per qualche periodo l'ex base Loran, che stava funzionando come CIE, ma è funzionato proprio qualche mese e poi basta, non è più funzionante. È aperto il centro di primo soccorso e accoglienza. Senti, e per quanto riguarda invece il, diciamo così, l'esercito piuttosto che le forze dell'ordine presenti, sì, perché si parla insomma anche di imbarcazioni che non riescono ad arrivare perché vengono speronate, vengono comunque fermate già in alto mare. Ma questo qui, se succede, succede proprio vicino alle coste tunisine, perché è successo una volta di una barca speronata, che io sappia, ma non si è riuscito a capire bene quello che era successo, come al solito, perché le informazioni poi vengono sempre filtrate e distorte. Però io posso testimoniare che la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, la Polizia stanno facendo un lavoro, diciamo, incredibile, perché sono sempre in mare, fanno la spola dalla banchina al mare, dalla banchina al mare incessantemente, e stanno facendo un lavoro veramente importante, perché veramente in questi giorni c'è stato un arrivo incredibile, massiccio di persone, senza, diciamo, senza i mezzi della Guardia Costiera, tipo non si sarebbero potuti fare i salvataggi, perché anche col mare mosso i ragazzi tunisini sono partiti, e quindi senza imbarcazioni di un certo tipo non si sarebbero potuto fare le operazioni di salvataggio. È vero che però sull'isola ci sono molte forze dell'ordine, e questo perché sempre dall'inizio, secondo me, è stata gestita male la cosa, perché all'inizio non si è aperto il centro di primo soccorso, gli immigrati sono stati fatti dormire per strada all'inizio, si è creata una situazione di tensione perché c'erano 3.000 tunisini in giro per le strade di Lampedusa, che non è successo niente fortunatamente, però dall'oggi al domani vedere 3.000 persone in giro e che poi finivano i soldi in condizioni igieniche precarie, non è stato semplice come impatto, però abbiamo risposto bene, loro hanno risposto bene, e fortunatamente ci siamo, non è successo niente. Però questa situazione ha provocato la famosa emergenza Lampedusa, che si poteva un attimo dall'inizio gestire meglio. Oggi la situazione come gestione, diciamo, dei flussi è buona, nel senso c'è una gestione di cui noi non ci possiamo lamentare. L'unica cosa è che col tempo, secondo me, si deve cercare di avere un rapporto tra la popolazione e gli immigrati, o con l'entrata noi nel centro, o con situazioni all'esterno del centro che favoriscano uno scambio tra gli immigrati e lampedusani, che io ripeto, l'uomo, l'essere umano è sempre una risorsa. Va bene, senti, noi ti ringraziamo. Prego.